ko na lang naman ka. Aqua, chintay niyo kita. Sento la forza sa dentro di me e sento nel cuore la. Evanescence.